Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte seconda, lezione 24. Nella precedente lezione, Rav Amanuna Sabha ha visto due problemi. È importante che tu conosca la storia della Torah Genesi, perché lo Zohar è un commento su quel libro. In questo puoi vedere che la Torah è la sorgente e lo Zohar è una risposta spirituale sulla Torah. Quindi è bene conoscere le storie scritte nella Torah. Immediatamente i suoi occhi si posarono sulle prime quattro parole. Breshit bara Elohim et. La prima cosa che vide fu: perché inizia con Bet e non con Aleph? E la sua seconda domanda era: perché le lettere sono raddoppiate? Bereshit bara due volte Bet, seguita da Elohim et, due Aleph. Due Bet moralità inventate, ma non la Torah o Zohar. Il libro della Torah è aperto a tutta l'umanità, ma la Torah era ed è rivelata solo a pochi. Naturalmente puoi vedere molti ebrei con boccoli e cappelli neri, ma non sanno nulla della Torah. Si siedono nella sinagoga proprio come hanno fatto i loro genitori prima di loro, e nessuno di loro capisce, e io so di cosa sto parlando, ma lo scoprirai. Ora inizia a spiegare. Ci sono due problemi, due domande, ricordi? Pagina 32, colonna di sinistra, ultimi paragrafi. Semplicemente leggere il testo. Sappi che questa è l'istruzione data dal Creatore e questa conoscenza può aiutarti a costruire la fede interiore. E risponde: quando venne Kadosh Baruch Hu per fare il mondo, nel momento in cui HaKadosh Baruch Hu, cioè Binah, ha voluto far uscire Zon, Za e Nukva, che sono chiamati mondo, erano le lettere, i quali sono i Kelim di Zon, i quali sono chiamate lettere, nascoste che erano racchiuse nei primi tre Sfirot, che sono Abba e Ima, e non furono rivelati. E risponde: quando Kadosh Baruch Hu è venuto per fare il mondo, nel momento in cui HaKadosh Baruch Hu, cioè Binah, ha voluto far uscire Zon. Zon è un'abbreviazione di Zerampin e Nukva. Esistono cinque Sfirot nel sistema operativo dell'universo, nel mondo Azilut. Zerampin è il quarto e Malkut è la quinta. A volte vedi il nome Malkut e altre volte vedi il nome Nukva. Nukva è uno stadio non sviluppato di Malkut, che significa che Nukva non ha 10 Sfirot, ma ovviamente è un elemento femminile. Qui ci dice che il creatore è Binah Elohim. Questo l'hai già imparato. Binah è la madre e i suoi figli sono Zerampin e Malkut. Lui continua con e i punti di forza di Zerampin e Nukva sono chiamati mondo. Quindi Zerampin e Malkut sono chiamati mondo. Chiaro? Zerampin ha 6 proprietà estremità: Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. Chesed è a destra, Gvura è a sinistra e Tiferet è nel mezzo, seguito da Netzach a destra, Hod a sinistra e Yesod nel mezzo. 6 Sfirot che sono in accordo con il nostro mondo. Ci sono 4 direzioni del vento, più alti e bassi. Questo è com'è nell'universo, e quello è perché la forza spirituale di Zerampin nel mondo di Azilut. Dove inizia lo spirituale? Dove inizia il sistema operativo? Non qui sulla Terra. Il sistema operativo inizia oltre il cosmo. Ci sono i mondi di Azilut, Bria, Yetzirah e Asiya. Oltre il cosmo c'è l'area dove nessuna navetta spaziale può arrivare, perché se il fisico arrivasse lì, immediatamente cambierebbe in un punto, che significa che il fisico non può mescolarsi con lo spirituale. Solo l'essere umano che vive qui, su questo pianeta, può sperimentare lo spirituale. Il nostro corpo è da confrontare con una tuta spaziale. La nostra essenza è dentro, e il nostro corpo fisico è come una tuta spaziale dataci per sperimentare lo spirituale. Lo spirituale inizia dove finisce il cosmo, dove non c'è nessuna legge della natura, solo la radice delle leggi della natura. In quel punto inizia lo spirituale. Chiaro? Quali Sfirot appartengono a Zerampin? Zerampin ha 6 Sfirot. Chesed, Gura, Tiferet, eccetera. Solo dalla testa? Il corpo di un Parzuf è Zerampin. Nukva è Malkut? Nukva è Malkut. Zerampin e Nukva sono chiamati mondo. Perché mondo? Ci sono 6 proprietà estremità. 6 proprietà estremità di Zerampin, più Malkut la 7ª. In questo vedi perché 7 è un numero così importante. 7 giorni della settimana, eccetera. 7 è un numero perfetto. Puoi confrontare i 7 Sfirot con i 7 giorni di una settimana. Vale a dire, domenica è Chesed, lunedì è Gvura, martedì è Tiferet, mercoledì è Netzach, giovedì è Hod, venerdì è Yesod e il sabato è Malkut. Vedi che Malkut appartiene a Shabbat? La domenica è un giorno di misericordia, Chesed. Questo lo puoi sperimentare su domenica. Non è una coincidenza, è tutto in accordo con le leggi dell'universo. Zerampin e Malkut sono il sistema operativo dell'universo. Ora continuiamo. La storia che racconta è così interessante. Zon sono chiamati mondo. Quindi il creatore che desiderava creare il mondo. Ora sai che il mondo è Zerampin e Nukva, e noi siamo un prodotto della diffusione più in basso, dal mondo Azilut tutto giù agli altri 3 mondi, Bria, Yetzirah e Asiyah. E alla fine di Asiyah c'è il punto più grossolano dell'universo, della nostra terra. Non c'è sostanza più grossolana di noi. Ciò che è sopra di noi è più sottile del materiale. Più si va sopra e più sottile diventa. Non c'è un punto più grossolano nell'intero universo. Ciò significa che non hai bisogno di binocoli, telescopi o osservatori in cui puoi scansionare il cielo per investigare o penetrare le leggi spirituali dell'universo. Ovviamente è interessante guardare l'aria e indagare chi lo ha fatto. Ora il Creatore aveva il desiderio di creare Zerampin e Malkut, che sono chiamati mondo. Questo è molto importante per noi. Chi voleva creare il mondo? Quella è Bina. Il Creatore è Bina. E qualche volta usiamo la parola Elohim per il Creatore. Lui aveva il desiderio di creare Zerampin e Malkut, di creare i mondi che sono Zerampin e Malkut, che sono i Kelim di Zon, che sono chiamati lettere. Come sapete, i Kelim sono vasi, come bene le lettere che sono anche ricevitori. Ma che cosa significa? Per esempio, se ha un foglio di carta e non c'è alcuna scrittura o disegno su di esso. Appena si inizia a scrivere e disegnare, la carta non è lo stesso significato che avete iniziato la propria creazione. Senza lettere il foglio di carta sarebbe pulito, ma fin dall'inizio appare un punto e alcune informazioni sono uscite. Pertanto le lettere devono essere viste come vasi, come Kelim. Lo stesso con noi. Il nostro corpo è un Kli, è una nave in cui la luce può venire. Considerando la luce siamo Kelim. Considerando un foglio vuoto, le lettere sono Kelim. Puoi vedere questo? C'è un parallelo tra le lettere e la nostra forza perché un uomo è un recipiente in cui la luce può venire. Lo stesso con le lettere del rotolo della Torah. Anche loro sono portatori di informazioni. Come sapete, esistono diversi tipi di recipienti per diversi ingredienti. Lo stesso con le lettere. Ogni lettera differisce da un'altra, quindi anche le informazioni sono diverse. Quando osservi attentamente le lettere, vedi posti bianchi e posti dove lo spazio è pieno di inchiostro nero. Le tonalità nere sono Kelim e i posti bianchi sono uno spazio vuoto. Ogni cosa in accordo con le leggi dell'universo e naturalmente nell'universo non ci sono lettere. È un modello dei punti di forza dell'universo, quindi con le lettere tutto deve essere compreso. Non tutto, ma ciò che ti viene dato per capire. Attraverso l'alfabeto ebraico diventerà molto chiaro per te. Lentamente vedrai la relazione tra le lettere, seguita dalla relazione tra parole, frammenti e paragrafi, e così via. Tante informazioni e quindi puoi venire in accordo con le leggi dell'universo e ricevere la salvezza. Da chi viene la salvezza? La salvezza viene dalla tua parte malvagia. C'è una parte malvagia dentro, non per spezzarti o distruggerti, ma per aiutarti. Come? Una volta che hai superato la parte malvagia, si deve percorrere il sentiero della libertà e sei proprio come Binah libero mentre la Malkut è ancora presente. In questo modo stai costruendo sempre più punti di forza che sono necessari per sperimentare più punti di forza di Binah. L'intero significato della salvezza è di essere liberato dal materiale. Non diventare come angeli, ma che hai libertà qui sulla terra. L'intera intenzione della creazione è che la creazione servirà te e non che tu servi la terra. Vedi la differenza? Il problema è, non è sbagliato che l'umanità stia servendo la creazione, ma non era l'intenzione del creatore. Ognuno serve la creazione. Uno sta guardando per il potere e altri desideri, per avere più denaro, di desideri di piacere, per lenire il suo corpo fisico o la sua mente. E anche quelli sono buoni, ma ti tieni focalizzato sull'estensione di cosa hai bisogno. Sta significando che prendi solo ciò che è necessario e non di più. Nel momento in cui vuoi avere di più o ne prendi di più di quanto tu possa gestire, ti avvicini alla dipendenza. Dipendenza significa che sei uno schiavo di qualcosa di materiale. Si dice su questa nazione che hanno iniziato a servire altre nazioni spirituali, hanno assunto altre idee e sono diventati schiavi degli schiavi. Sta significando che hanno iniziato a idolatrare strani dei. E cosa è successo? Gli strani dei hanno portato via la vera libertà. La vera libertà è all'interno. Il Creatore ha creato gli esseri umani in totale libertà. È scritto, e Lui li ha fatti con le stesse qualità che aveva Lui. Significa libertà, e non che la creazione doveva essere una schiava per il Creatore. Portandoti in accordo con le leggi dell'universo, diventi un figlio di Hashem. Ognuno di noi può essere un figlio di Hashem, non solo Yeshua, ma ogni persona che sta leggendo questi. Sappi che sei un figlio di Hashem e non solo chi sta leggendo questo. Ogni essere umano è un figlio di Hashem. Chiaro? Dice che il mondo è stato creato da Binah. Binah, Hashem, Elohim. Binah ha prodotto Zon. Zerampin è composto da 6 Sfirot e Nukva, 7 o il corpo, il busto dei 10 Sfirot. Le lettere sono Zerampin, come mai? Puoi confrontarlo con il corpo di un uomo. La parte più importante del corpo è il busto. Questo è più importante della testa o delle gambe. Tutti gli organi vitali sono incorporati nel busto. Forse pensi che la testa è più importante. E la testa è importante, ma l'intenzione della luce e di entrare nel corpo, nel busto. Solo nel corpo puoi sperimentare il Creatore, non nella testa. Quello che sperimenti nella testa non è il Creatore. Hai bisogno del tuo corpo per sperimentare il Creatore. E un modo per sperimentare il Creatore sono le lettere. Da una parte parlo di 10 sfirot, emanazioni di luce, e dall'altra parlo di lettere. Non c'è differenza, perché tutti loro sono portatori di informazioni. Ci sono 6 sfirot, e quando aggiungiamo Nukva sono 7. Questo si riflette nelle 22 lettere più le 5 lettere finali, 27. 3 per 9, 27. Qual è il significato di questo? Più tardi, sii paziente. Per ora è importante chi è venuto in esistenza. Zerampin e Nukva sono venuti in esistenza e sono le lettere. Lettere significa Kelim, portatori di informazioni. Tutte le lettere provengono da Zerampin e Malkut, è chiaro? La testa non ha Kelim. La testa riceve solo i pensieri. I pensieri sono molto sottili. Solo nel corpo sono i Kelim. Nel corpo ci sono i desideri dell'uomo e dentro i desideri sono i Kelim, o in altre parole, Zon, Zerampin e Nukva. Chiaro? Qui lo Zohar ci dice che il Creatore aveva il desiderio e il Creatore è Binah, per portare in esistenza le lettere, i Kelim di Zon. I Kelim sono ricevitori per la luce. Come sai, ogni cosa ha due lati. Ciò che esiste ha Kelim e luce. I Kelim sono i ricevitori per la luce, o la luce entra nei Kelim. Ora dice che le lettere sono Kelim di Zon, o i ricevitori della luce. Parliamo di emanazioni, ingrossamento della luce, che sono anche Kelim, mondi, sfirot, eccetera. Oppure parliamo delle lettere del nome del Creatore. E non c'è differenza, perché tutto è uno. Più tardi si vedrà questo, e poi si può andare dagli sfirot alle lettere e così via. I Kelim sono Zon e sono chiamate lettere, quindi ricevitori per la luce che provengono dalla testa, da sopra. Inoltre ci dice che i Kelim sono ancora nascosti, che significa che non sono visibili, o in altre parole ci manca la comprensione. Il potenziale c'è. E l'unica cosa che dovevano fare è di risvegliarsi per diventare visibile. E come già sai, nulla cade sopra se non c'è il risveglio da sotto. 3 Kelim sono ancora nei primi 3 sfirot di Abba e Ima, che sono i primi 3 sfirot di Binah. Keter, Kochmah e Binah, che sono ancora nella testa. Sono ancora nella testa di Binah perché Zon non è venuto ancora in esistenza. Puoi vedere Binah come il padre e madre divini e i loro figli non erano ancora nati. Sono Abba e Ima che devono portare fuori i loro figli Zerampin e Nukva. Vedi la somiglianza con una famiglia materiale? Anche loro devono unirsi per fare un bambino. Dov'è il bambino prima che i genitori si uniscano? Innanzitutto c'è una parte nel cervello del padre che significa il seme spirituale. Da dove proviene il seme di un uomo? Proviene dalla sua testa. ogni cosa è nella testa. E quando è in contatto con sua moglie, il risveglio avviene e tutto scende attraverso la sua spina dorsale. Lo stesso succede quando nasce Zon. In un certo modo, ogni cosa scende attraverso i nervi nella spina dorsale. E una spina dorsale diventa più ruvida alla fine. Quindi prima c'è il desiderio. Un pensiero è un desiderio molto sottile e lentamente scende fino a raggiungere Yesod e quindi appare da Yesod come un fluido verso l'esterno. Comincia sempre nei pensieri e c'è l'aspetto femminile. L'elemento femminile circonda il seme e gli dà corpo. Prendi nota di questo. Il maschio è dentro la femmina circonda il maschio e questa somiglianza con lo spirituale. Questo è il mondo in cui Zerampin viene in esistenza. Tutto è iniziato nella testa. Questo non succede con una femmina? È il maschio che desta la femmina? Più tardi vedrai come funziona. È possibile che questo accade da sotto a sopra, intendo che cambi il materiale nello spirituale. Da sotto a sopra è la correzione. Ogni cosa viene da sotto. Questa è un'ottima domanda, ma ora sto parlando dell'inizio del processo di creazione. Quindi parlo da sopra a sotto. Qui ci parla del desiderio del creatore di creare la creazione. Ora parlo di Abba e Ima, di Binah, e da Binah appare Zerampin. Una volta creata la creazione, c'era la necessità che da sopra tutti i punti di forza sarebbero venuti di sotto, perché ogni cosa è stata realizzata. E sapete che c'è una legge spirituale. Niente scompare nello spirituale. Quindi, anche se è stata creata miliardi di anni fa, è ancora esistente. Il momento in cui è nato Zon è stato, è ed è sempre lì. La Torah parla solo di Zon? Qual è la creazione del mondo? Quando senti questo, pensa direttamente a Zerampin e Nukva, o Zon dal mondo Azilut, Briah, Yetzirah e Asiyah. In ogni mondo c'è Zon. Una volta creato Zon, non era necessario farlo di nuovo. Ora sta a te farlo accadere. Significa che sei tu che devi fare Man, una richiesta da sotto per farla salire sopra, perché c'è la legge spirituale di nulla viene da sopra se non è suscitato da sotto. È chiaro? Qui parliamo di Binah, e lui è l'aspetto del dare, il creatore. Cos'è il creatore? Il creatore è la condizione di dare, l'altruismo diffuso in questo universo. Questo è ciò che viene dato all'intera esistenza e a tutte le altre cose che vedi. Tutte le immagini di un Hashem sono speculative, non spirituali, e agli ebrei è data l'essenza più profonda, ma devono studiare giorno e notte e hanno bisogno di lavorare su se stessi e poi trasmetterlo ad altri, che è il loro compito. Tutte le nazioni hanno i loro capi spirituali, i loro sacerdoti, eccetera, ma circondano l'essenza, e l'essenza è nascosta, è stata data a loro che sono gli ebrei, e sai già che in ogni essere umano è nascosto il suo ebreo personale. Spero che tu abbia letto il corso base e in caso contrario, per favore fallo, perché c'è scritto che nessuno può venire ad Hashem senza passare per il suo ebreo personale. Se vuoi venire in contatto con Hashem, sai che devi trovare il tuo ebreo personale. È chiaro? Per realizzare questo è estremamente importante lasciare andare tutta la resistenza che potresti sentire mentre lo stai raggiungendo. Il mio consiglio è: basta leggere e concedersi del tempo, così da poter digerire tutte le informazioni e un giorno sentirai l'esperienza del tuo Hashem personale. Ci dice che i Kelim di Zerampin sono ancora nascosti. Puoi confrontarlo con una coppia che ha in programma di avere figli. Ci dice che anche il Creatore aveva un piano. Lui aveva desiderato, come la coppia, di avere dei figli. Questo è l'inizio del processo per avere un figlio. Il maschio ha il desiderio e si unisce con la sua partner. Ora rende sua moglie concepibile, calorosa, e questo ne necessita di essere fatto in un modo molto morbido, e non in un modo rozzo e maleducato, come talvolta accade in questo mondo. Cioè lo stupro, questo non è umano. Questo accade perché un violentatore non sa quale sia la funzione di un uomo, si comporta come un rude e un uomo ha bisogno di suscitare la sua parte sinistra, i suoi gvurot, la sua forza di din, ma non è il suo carattere, ma ha bisogno di questa forza per adattarla, così può essere fatto con dolcezza e non con violenza, Hashem non voglia. Se un bambino è fatto con violenza o uno di loro è ubriaco, eccetera, sappi che il bambino soffrirà in seguito. Il momento del concepimento è estremamente importante. Quali sono i pensieri dell'uomo e quali sono i pensieri della donna è importante per la vita del neonato, se soffrirà o avrà una vita kosher. Tutta la miseria o la gloria del bambino giace in questo momento del concepimento. Dopo lo imparerai, ma per ora è abbastanza. C'è così tanto altro da dire su questo argomento, ma voglio che tu sia pronto, che tu abbia la giusta comprensione, perché questo è un argomento molto delicato. Quando è il momento, devi pensare al bambino che verrà nella tua vita e non ai soldi o ad altri problemi. Il grande saggio lo sapeva, quindi vedi che i loro figli sono anche più grandi e più saggi dei loro padri. Colui che sta nella giustizia ha la giusta intenzione per far nascere bambini nuovi e indirettamente imparerai anche questo imparando la Kabbalah. C'è così tanto da imparare e la ricezione che ricevi dalla Kabbalah ti darà una spinta nella tua salvezza. Accadranno molti miracoli, significa che ti aprirai, ti eleverai nel senso più profondo della parola, per cui puoi vedere la tua vera salvezza e puoi attirare la salvezza a te. E una volta che questo accadrà, noterai una completa indipendenza da ogni cosa e da tutti. E tuttavia c'è una connessione con tutti. Ciò è possibile, questa è logica divina. E Zerampin e Nukva questa è un'altra parola per Kelim, erano ancora come un embrione, non ancora rivelato. Se è così, dov'erano? Erano racchiusi nei primi tre Sfirot, che sono Abba e Ima, ed essi non lo sapevano ancora. In un certo modo si potrebbe dire che erano nella testa, nei primi tre Sfirot della testa. È bene usare la frase nella testa. Potremmo usare la parola corpo, perché Zerampin è il corpo, ma è buono sentire che sono nella testa. Nomi diversi per la stessa tonalità, solo diversi. Nella testa significa che sono ancora all'interno dei genitori e non sono ancora comparsi, ma quando i genitori hanno l'intenzione che nasca un bambino, esso accade. Se un uomo dice di sì e la madre si dona per lui, è già un fatto compiuto. Essi solo si girano a spegnere la luce. Sai già dallo Zohar, prima che il creatore, che è Binah, creasse il mondo, lui guardò le lettere e si divertiva con loro. Questo è comprensibile? Ora ci dice il modello dell'albero di vita, queste basi le devi capire. Ekokma e Binah sono chiamati 2000 anni e prima che fosse creato il mondo le lettere di Zon erano racchiuse in Kokma e Binah. Quindi questa inclusione di Zon è considerata dentro Kokma e Binah e sono chiamati 2000 anni prima che fosse creato il mondo. Kadosh Baruch Hu guardava attentamente le lettere e si divertiva lui stesso, perché allora Zon era come l'aspetto di Man nell'aspetto di 2000 anni, che sono Kokma e Binah. E Man è il fattore permanente che lui si è divertito con loro per il superiore. E questo è ciò che dice, che nel tempo in cui erano Man, nel Kokma e Binah guardarono attentamente Kadosh Baruch Hu in loro e si divertirono. E Kokma e Binah sono chiamati 2000 anni e prima che fosse creato il mondo le lettere di Zon erano racchiuse in Kokma e Binah. Erano racchiuse in Kokma e Binah significa che erano ancora con il padre e la madre. Kokma è Abba, il padre, e Binah è Ima, la madre. Zon, Zerampin e Malkut sono grossolani delle luci. In un certo modo potresti dire che sono lettere racchiuse dentro Kokma e Binah. Presta attenzione e focalizzati, non pensare a nulla, è solo esperienza. Il tuo interiore sa di cosa parla lo Zohar. È il tuo esterno che sta protestando. Il tuo esterno dice, che cos'è questo? Cosa c'è di buono? Il tuo interno ha la comprensione. Non c'è rabbi qui in Olanda che comprende di cosa stiamo parlando. Ma continuiamo. Succederà se lavori su te stesso. Pagina 33, colonna di destra, il commento di Sulam, prima frase. Pertanto questa inclusione di Zon è considerata dentro Kokma e Binah. Sono chiamati 2000 anni, prima che fosse creato il mondo. Kadosh Baruch Hu guardava attentamente alle lettere e si divertiva. Cosa significa questo? Il significato è che lui ha guardato alle lettere che erano ancora nel germe, come un piano con i loro genitori. Si potrebbe dire che il creatore è nostro padre e madre. e le lettere non sono ancora apparse perché erano ancora nel germe. Una buona analogia con il padre e la madre terreni che hanno il piano di fare un figlio. Il bambino non è lì, la luce necessita di essere spenta, ma il divertimento è lì. Entrambi hanno il desiderio di avere un figlio. Il bambino è già molto prezioso per loro. Qui ci dice che il creatore, l'alta Binah, Abba e Ima, hanno creato il mondo, creato Zerampin e Nukva, e per 2000 anni Binah, il creatore, li ha guardati e si è divertito. Perché 2000 anni e qual è il significato che lui li guardò? Ricorda non una parola che non sia necessaria. Ogni cosa sono punti di forza, logica divina, inconfutabile, eterna, e ciò di cui ci occupiamo. Qui ci dice che Zerampin e Nukva, Zon, sono racchiuse in Kokma e Binah. Lo Zohar ci dice che 2000 anni prima di creare il mondo, che sono Zerampin e Nukva il creatore, Binah, guardò alle lettere Zerampin che erano ancora nella testa, erano ancora nel germe o in altre parole erano ancora nei pensieri. E lui si divertì con loro. Ora vediamo qual è la sua spiegazione. Perché allora Zon era come l'aspetto di Man nell'aspetto di 2000 anni, che sono Kokma e Binah, e Man è il fattore permanente che lui si divertiva con loro per il superiore. E questo è ciò che dice, che nel tempo quando c'era Man in Kokma e Binah, guardarono attentamente Kadosh Baruch Hu in loro e si divertirono. Erano ancora nella testa di Binah. Da quel momento ogni cosa si ripete. Malkut, l'inferiore, viene a Binah e rimane lì per un certo tempo. Si potrebbe dire che questo è il momento di crescita, proprio come il feto cresce nel grembo della madre e appare quando è pronto. Lo stesso sta succedendo qui. Abbiamo il desiderio per Binah, che significa Man. Man è un'abbreviazione per le parole aramaiche Main Nukvin, acque femminili. Nel momento in cui dai una preghiera, è come le acque femminili considerando il divino. Non importa se sei un uomo o una donna, perché entrambi hanno un lato maschile e femminile. Il fatto è che l'origine del maschio e della femmina è maschile quando è un uomo e quando è una donna l'origine del maschio e della femmina è femminile. È chiaro? Un essere umano ha due lati, maschio e femmina. Ci dice che per 2000 anni Zerampin e Nukva, Zon, sono ancora la testa di Binah, come Man per 2000 anni. Ma cosa significano 2000 anni? Per 2000 anni il creatore ha giocato con le lettere. Tieni sempre in mente l'albero di vita o fai una relazione con i 10 Sfirot. Se lo fai, seguirà un'enorme luce, intuizione e comprensione. Per 2000 anni erano con il padre e la madre e ci dice che il padre e la madre, che sono Kokma e Binah e Man, la preghiera, la presenza di un inferiore nel superiore, significa che quando un inferiore si alza al superiore, a Kokma e Binah, Kokma è saggezza e Binah è intuizione. Quando un inferiore ha mancanza e ha bisogno di Kokma e luce, necessita di dare man, la preghiera o una richiesta, e portarla sopra. Come funziona questo? La tua preghiera, il tuo man, si annida tra Chokmah e Binah, tra il padre e la madre, e al momento Binah, madre, questa è la famiglia divina, ed è buono se conosci i dettagli della famiglia divina. In un certo modo è come le storie di Harry Potter, tutti i personaggi, una famiglia divina, con tutti i loro personaggi, è bene conoscerli, come giocano insieme le forze dell'universo. L'inferiore porta i suoi migliori punti di forza a Chokmah e Binah, che sono i nostri genitori, e per questo la madre si sente obbligata a volgere il viso al padre per il bene dei figli. È chiaro? Qual è il significato spirituale di coito? La madre guarda al padre. Lei gira la sua parte ricevente al superiore, al padre, e lui si gira a lei perché questo è il momento migliore, che significa che la richiesta di sotto è stata sufficiente. Esiste una legge divina, il superiore vuole sempre dare all'inferiore. È chiaro? Qual è il significato di questo? C'è sempre il desiderio della luce di penetrare l'inferiore. Ma il più delle volte l'inferiore non ha il desiderio di ricevere. C'è sempre una scusa per non iniziare con la Kabbalah. Lui rimane calcolativo, calcolatore. Ancora una volta, quando un inferiore ha un desiderio per il superiore, lui viene tra Binah e Chokmah, tra padre e madre. Quando questo accade, Binah è obbligata. Perché? I bambini vengono da Binah e causa della loro esistenza, quindi si sente obbligata a colmare la loro mancanza. Così si gira a Chokmah e le radiazioni di Chokmah arrivano da lei. Questo è il coito spirituale, guardarsi l'un l'altro. Lei lo guarda e nel suo guardare una forza speciale è coinvolta. Binah è un po' più ruvida, lei è Hasadim, ma la forza di Chokmah è più raffinata. Lui le dà e lei filtra le sue radiazioni prima che le passi ai suoi figli. È chiaro? Naturalmente non è lo stesso come nel nostro mondo. Lei dà solo ai suoi figli ciò di cui hanno bisogno, ciò che possono digerire. Sa esattamente di cosa hanno bisogno, cioè sono sulla spiaggia e vogliono un gelato. Il padre guarda la sua rivista e vigila come la madre si comporta con i bambini. Lei va da lui e gli chiede i soldi perché i bambini vogliono un gelato. Lui domanda di quanti soldi ha bisogno e lei gli fornisce il giusto importo e lei riceve i soldi per comprare un gelato. Lascia andare tutta la tua resistenza, perché questo è come funziona nello spirituale. Questa è una legge spirituale. Il superiore riceve per il bene dell'inferiore e poiché dell'inferiore anche il superiore riceve. Qui ci dice che durante i 2000 anni i bambini, gli inferiori, sono come un embrione, che significa che esistono solo nei pensieri del padre e della madre. E naturalmente sto parlando solo di punti di forza. Ma perché usa il numero di 2000 anni? La ragione di questo è perché Chokmah e Binah sono due. Ma non sai ogni cosa, ma devi sapere che tutto l'apprendimento che fai, l'intero libro di Zohar, è all'interno. In un certo modo, tutti i punti di forza di cui sta parlando sono dentro di te. anche se sembra di vecchio stile, qui c'è un principio molto importante, ossia che per mezzo del man, la preghiera o il desiderio, va dall'inferiore al superiore. Questo è molto più profondo di quanto tu possa pensare. Puoi leggere così tanti libri, ma qui in questa frase, quello che sto per dirti è molto più degno di tutte le religioni insieme. Tutto il desiderio, tutte le tue aspettative per il Redentore come Yeshua, Mosè, eccetera, sappi che questa frase è parte del salvataggio, ma hai bisogno di lavorare, hai bisogno di digerire queste informazioni, e finché ti mancano i Kelim sarà molto difficile. Finché ti mancano gli organi ricettivi, non puoi prendere le informazioni. Prova a vederlo in questo modo. Ai bambini piccoli non piace il cibo che mangiano i loro genitori. Il loro desiderio è per le patatine e i dolci. Ma più anziani diventano e più possono apprezzare il meraviglioso cibo delicato. Hanno bisogno di costruire gli organi ricettivi per apprezzare il cibo delicato, lo stesso con lo spirituale. Presta attenzione, questa è una frase molto importante. Naturalmente ogni frase è importante, ma il man, il desiderio che viene dall'inferiore, quello chiamato man viene tra il padre e la madre, e causa divertimento al superiore, sempre, è chiaro? Quando un inferiore vuole qualcosa di buono dal superiore. Al superiore piace molto. Provano gioia perché, ovviamente, vogliono soddisfare il desiderio dei loro figli, quindi devono entrare in contatto l'uno con l'altro, significa che fanno zivug. Si guardano l'un l'altro e da loro va sempre più in alto fino a quando non arriva alla Ein Sof, perché né Abba e né Ima hanno nulla da loro stessi. Tutti i punti di forza giungono a Ein Sof, alla luce di eternità, perché è la sorgente di tutte le luci. Capisci? Non c'è un parzuf, nessun ingrossamento della luce, nessun mondo che ha qualcosa di suo. Ci sono solo punti di forza nel mondo, schermi per portare la preghiera verso l'alto, sempre più in alto, fino a che essa finalmente arriva all'Ein Sof, la luce di eternità, e da questa luce di eternità viene una reazione adeguata ai mondi e tutti gli schermi ricevono la loro parte, a seconda di quanto aveva chiesto l'inferiore. Supponiamo che tu abbia una vittoria sull'altro lato, cioè inizi con l'apprendimento mentre l'altro tuo lato ti dice quanto sia sciocco, ma lo ignori e fai. Questo dà forza e questa forza va verso l'alto e va al prossimo grado, e il grado successivo, tutto fino a Ein Sof, perché hai ignorato l'altro tuo lato. E da Ein Sof ritorna a tutti i mondi, il mondo di Adam Kadmon, Azilut, Briah, Yetzirah e Asiya. E da Asiya alla fine ricevi la tua porzione, perché hai superato l'altro lato, è chiaro? Avevi una richiesta, un desiderio, quindi puoi ricevere. I mondi superiori avevano già la loro porzione e ora puoi ricevere la tua parte. Capito? È scritto che quando un inferiore dà una preghiera o ha un desiderio e lo porta al superiore, il superiore si diverte e gode di loro. Lo stesso qui. Supponiamo che tu abbia un figlio e lui può leggere per la prima volta una lettera. Quanto è entusiasta, così anche tu. Ancora una volta, un inferiore si risveglia per il superiore e il superiore è contento e si diverte. Ricorda questo per la prossima volta che hai un desiderio. Sappi che il superiore è molto contento. Chi è il superiore? Il superiore è la tua forza divina, o in altre parole ciò che è oltre la tua esperienza, o potresti dire ciò che non puoi ancora vedere o capire. Tutto ciò di cui non sei consapevole è alto, trasparente, raffinato, e quello è il tuo Hashem. Già sai che Hashem non cambia, ma ai tuoi occhi sembra che cambi, ma sei tu che sei cambiato. Ti ho parlato una volta di un grande cabalista che visse in Russia durante il XIX secolo, in un piccolo villaggio in Ucraina, e disse che aveva ogni giorno un altro Hashem. Ovviamente il rabbino attorno a lui era molto turbato, perché per loro Hashem non cambia. Essi rimangono gli stessi, non cambiano, ma questo rabbi aveva ogni giorno un nuovo Hashem, che non poteva essere possibile. Allora un gruppo di rabbini andarono da lui e gli chiesero: «È vero che hai ogni giorno un altro Hashem?» Questo rabbino spiegò loro questo molto bene e disse che Hashem è sempre lo stesso. C'è il comune e lo speciale, e nello speciale, nella sua consapevolezza, Hashem cambia. Vide suo padre in una varietà di personaggi. Un giorno noti che tuo padre può giocare a scacchi molto bene, e un altro giorno vedi che sa molto delle macchine. Questo fa accrescere la tua approvazione. Un altro giorno vedi quanto è carino come tratta tua madre. Ogni giorno vedi più di tuo padre. Il padre cambia? No, il padre non cambia. È la tua consapevolezza che cambia. Questo è molto chiaro e per te è lo stesso. Ogni giorno tuo padre ti mostra un altro personaggio. Per te lui cambia, ma i nuovi personaggi che vedi erano già con lui. È chiaro? Non c'è giorno in cui tuo padre ti mostri un altro personaggio, e lui può farlo in molti modi. Molto importante in questo è il tuo desiderio. Devi aprire i tuoi occhi. In un certo modo, tuo padre non può divertirsi se da te non c'è alcun segno, ma se gli dai dei segni, a lui puoi divertirlo, e il risultato verrà a te. È chiaro? E questo è ciò che dice lo Zohar, che nel momento in cui Zon erano in man preghiera, le loro fasi di embrione con Chochmah e Binah, che sono il padre e la madre, Kadosh Baruch Hu, guardavano intensamente a loro. Guardare intende Chochmah. Guardi con i tuoi occhi e gli occhi sono Chochmah, saggezza, e lo ha divertito. Per divertirti con i tuoi figli hanno bisogno di stare con te. I bambini vengono da te nel senso che fanno il movimento per andare a Binah, e Binah è Hashem. In ogni situazione vai a Binah, sta significando che vai ad Hashem. Sai già che i bambini di Binah sono Zerampin e Malkut, sono la sua prole. Quando vai a Binah, al tuo prossimo grado significa che vai dal tuo creatore, al tuo Hashem, e lo vedi con un altro personaggio. È chiaro? Vai da lui sta significando che lo incontri ad un nuovo livello, perché ti sei sollevato ad un nuovo livello. Pertanto lui si manifesta con un nuovo personaggio. Più a lungo sei coinvolto con la Kabbalah, più lavori su te stesso, ti alzi e puoi vederlo in un altro livello con un altro personaggio. E quando vai a Binah È possibile che un superiore diverta un inferiore? Vai al superiore, significa che i tuoi Kelim sorgono e vengono a Binah. Quando un inferiore va a un superiore, diventa come il superiore, questo lo sai già, ma che lui si diverte con te cosa significa? Lui è felice, sei arrivato al suo livello, quindi si sente divertito, felice. Ancora una volta, quando vai a Binah, o nel linguaggio della Kabbalah, Zon va a Binah, perché lui dice che Zon va ad Abba e Ima? Lentamente, come già sai, c'è la legge spirituale di essere d'accordo considerando le qualità. Chi è Zon? Zon è Zerampin e Nukva. Chi è maschio e chi è femmina? Zerampin è maschio e Nukva è femmina. E quando ascendono ad Abba e Ima, al padre e madre, a Kokma e Binah, a chi va Zerampin? Zerampin va a Kokma e Nukva va a Binah. Puoi vedere lo stesso in questo modo. Il padre gioca con suo figlio e la madre gioca con sua figlia. Se ci sono due bambini, questo è il caso, e non pensare che è una vecchia moda. Ora sai che questa è una legge spirituale. Zerampin va da Abba, al padre, e Nukva va a Binah, e in questo modo possono fare zivug. Se puoi lasciare andare la tua resistenza, avrai già una rivelazione di un profondo segreto. Zerampin va dal padre, perché Zerampin e Nukva vanno dai loro genitori? Hanno bisogno dei loro genitori, sono ancora piccoli, significa che qui sotto non possono ricevere. Per diventare grandi hanno bisogno di crescere. E cosa li nutre? Infatti, la loro mancanza. Sentono di avere mancanza e quello causa a loro di poter fare man, dare una preghiera o una richiesta, e in questo modo da sopra hanno il divertimento, si divertono con la vostra richiesta. Il superiore si diverte, ama lavorare per te, da lui ricevi cibo, forza che ti dà più vita e per questo l'inferiore può crescere. La tua richiesta va sopra e da sopra ricevi la forza di liberarti dalla tua mancanza. È chiaro? C'è un modo per liberarti dalla mancanza? Questo può essere fatto con la tua preghiera. La tua preghiera va su a Binah e lei si prende cura di te, o in altre parole si diverte perché hai fatto qualcosa di carino. Lei lo porta a Ein Sof e da Ein Sof ti ritorna. Tu ricevi la tua parte e ciò ti dà l'idea che la tua mancanza è scomparsa, ma attraverso la tua preghiera hai fatto spazio per qualcosa di nuovo, una nuova comprensione. Prima hai avuto la domanda: perché sono seduto nella mancanza? Io non capisco, mi preoccupo, eccetera. Tutti i tipi di cose che non erano in accordo con la funzione dell'universo. Lo puoi capire. Ti preoccupi della creazione, che significa che la tua auto è graffiata, e ora ti preoccupi, tutto il giorno vedi problemi, o in altre parole sei diventato uno schiavo del materiale, e ciò ti dà mancanza. Non importa quale sia la situazione in questo mondo, è chiaro? Qualcuno ti ha dato uno schiaffo o ti ha detto qualcosa. Qualunque cosa fosse, ti sentivi umiliato e quello ti dà il sentimento di mancanza. Cosa fare? Questo è il momento perfetto per fare una preghiera, una richiesta. E la richiesta è che vuoi liberarti della mancanza. Questa richiesta va a Binah e Binah la porta a Kokma, a un grado successivo, ed essi si divertono, sono felici di aiutarti, e da loro va a Ein Sof, e da Ein Sof la risposta scende. Cosa scende? Qualcosa cambia dentro di te. La rabbia è sparita, il tuo triste sentimento è sparito. Nel complesso ti dà spazio. Lo spazio che non è legato alla tua mancanza. La luce è per sempre. Ti dimentichi dei graffi sulla tua auto perché dall'alto ti viene data l'essenza della tua vera condizione in quel particolare momento. Non importa se la tua auto è graffiata o che sei nel mezzo di un divorzio o cielo proibisca che qualcuno sia morto. Da sopra ti mostrano la condizione reale secondo le leggi dell'universo e che ti danno così tante intuizioni che ti dimentichi dei problemi di quel momento. Tutto questo può accadere perché riconosci la tua mancanza e hai dato una preghiera. Così il tuo divino padre e madre sono contenti di aiutarti e dalla luce è venuto lo spazio, la libertà per te. La prossima volta ti dirò di più, ma per ora è abbastanza. Shalom.